di quel che ho, neanche un minimo brivido. Ora no, it's the air that I breathe, it's my fall at your feet, it is my song I sing when you are gone. Confesso, sei la causa mia primaria, adesso in me di tutto il buono che c'è. Lo so, sei la primavera. Scatto di